porta via con sé il colore. Dalla mia mente, Morfeo, io voglio te. Aiutami a scendere, cullami dolcemente, mentre mi ripeto che dovrei solo scegliere tra le emozioni in offerta. Mentre mi ripeto che vorrei fare l'amore ancora e ancora una volta. A volte penso che vorrei essere per un po' di tempo trasparente, quell'aria estiva che ristora come può, che vaga solitaria e ebria lentamente. La notte porta via con sé quel dolore che non mi consente di essere limpida, e con la spontaneità indistintamente, mentre mi ripeto che dovrei solo scegliere tra le sfumature in offerta. Mentre mi ripeto che il sesso non vale niente, vorrei fare l'amore ancora e ancora una volta. A volte penso che vorrei essere per un po' di tempo trasparente, quell'aria estiva che ristora come può, che vaga solitaria e nebbia lentamente, ma per un principio di realtà son costretta a rimanere qua. E chiedo a te che dici di non buttarti indietro mai. Dimmi il tuo segreto, io voglio sapere come fai. A volte penso che vorrei essere per un po' di tempo trasparente, quell'aria estiva che ristora come può, che vaga solitaria.